diranno. È un uomo in pena, è malato nella schiena, la sua spina dorsale non ha corrente, e i suoi fiumi sono un mare di sangue. È l'ora della cena, abbracciami amore, la luna è piena, anche l'aria più fresca questa sera, ora che è crollata nel fango la sua bandiera. Gridiamolo al vento che sputa nel mondo, paga prima o poi con i suoi denti il conto, e non c'è salvezza da salvare, né peccato da perdonare, che umilia la dignità, non merita nessuna compassione di tiranni. I tiranni sono tutti uguali, sono chiodi storti sparati negli occhi dei bambini. Pensano di pensare, ma sono alcolizzati alla vigliaccheria dei loro cuori malati. È l'ora della cena, abbracciami amore, la luna è piena, anche l'aria più fresca questa sera, ora che è crollata nel fango la sua bandiera. Gridiamolo al vento che sputa nel mondo, paga prima o poi con i suoi denti il conto, e non c'è salvezza da salvare, né peccato da perdonare, che umilia la dignità, non merita nessuna compassione di tiranni. Tiranno si crede onnipotente solo perché in bambola la gente, poi un giorno crollano come pupazzi e muoiono soli impiccati dai loro stessi occhi. È l'ora della cena, abbracciami amore, la luna è piena, anche l'aria più fresca questa sera, ora che è crollata nel fango la sua bandiera. Gridiamolo al vento che sputa nel mondo, paga prima o poi